Ciao a tutti carissimi ascoltatori di Radio Big World e bentornati in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Io sono come sempre Elisa Elena Carollo, la vostra aspirante attrice di fiducia. Anche oggi vi ho portato un monologo per dimostrarvi che il teatro, anche se è stato scritto tanti anni fa, non è così lontano dalla nostra vita quotidiana come crediamo. Nelle ultime puntate del podcast mi lamentavo di non avere molte idee, di non sapere di che argomento parlare. Ok, questa settimana non ho avuto problemi, perché c'è una ricorrenza importante e che tutti dobbiamo ricordare. Il 27 gennaio, come tutti saprete, è la giornata della memoria. Ho sempre avuto un rapporto abbastanza particolare con questa ricorrenza. Fin da quando ero piccola, a scuola mi hanno sempre fatto fare delle attività per ricordare, appunto, questa grande tragedia dell'Olocausto. E io in realtà non capivo bene perché dovessimo tutti gli anni ricordare questi avvenimenti terribili. Nel sentir raccontare di questi episodi, nel leggerne, io mi sentivo veramente malissimo. Stavo male per queste persone, per il destino che hanno subito. Mi sentivo anche un po' in colpa io perché ero stata molto più fortunata e loro non avevano fatto niente per meritarsi la morte o delle sofferenze così atroci. E non capivo perché dovessi starci così male ogni anno a ricordare questa tragedia. In fondo non potevo più farci niente, era tutto passato. Poi crescendo ho capito che ricordare è veramente importante e si chiama giornata della memoria perché non dobbiamo dimenticare quello che è successo, ma non soltanto per la memoria di queste persone che hanno sofferto tanto, soprattutto per impedire che questo possa succedere di nuovo. Che sembra una possibilità molto remota perché dei gesti così grandi, così terribili nel voler sterminare così tante persone, sembra impossibile che possano accadere anche ai giorni nostri, che noi possiamo esserne testimoni. Però, in effetti, anche in quell'occasione è iniziato tutto in modo graduale. Le persone non se ne sono accorte o facevano finta di non accorgersene, finché non è stato troppo tardi. Questo è il motivo per cui dobbiamo ricordare. E oggi non ho scelto uno di quei testi traumatizzanti che mi leggevano quando ero piccola alle elementari, perché ci sono utili per non dimenticare l'orrore di quello che è successo. Però io mi voglio concentrare su una dimensione un po' più quotidiana è un po' più vicina a quello che potrebbe accadere anche a noi. Il testo che ho scelto è tratto da Terrore e miseria del Terzo Reich di Bertolt Brecht, in particolare dall'episodio La moglie ebrea, la nona scena di quest'opera. Si tratta della storia di Judith, una signora ebrea sposata ad un medico, Fritz, che nell'epoca dell'ascesa del nazismo decide di andarsene per non compromettere la carriera del marito. Essere sposato con una donna ebrea all'epoca delle leggi razziali avrebbe potuto creare molte difficoltà professionali a Fritz. Quindi la moglie decide di compiere questo sacrificio. Ma prima di andarsene cerca anche di far ragionare il marito, di fargli capire verso che cosa si sta andando. Gli fa un lungo discorso di cui io ho preso soltanto una parte, ma credo che ci possa far capire qualcosa di importante. Non ti ho detto che volevo andarmene, che già da tempo volevo andarmene. Perché non posso parlare quando ti guardo, Fritz. Allora mi sembra che ogni parola sia inutile, tanto è già tutto deciso. Che cosa hanno? cosa vogliono in realtà? Che cosa gli faccio? Non mi sono mai occupata di politica. Tenevo per Talman, forse? Sono una di quelle signore borghesi che hanno servitù, eccetera. E ad un tratto, cosa succede? Soltanto alle bionde è permesso di essere così. Negli ultimi tempi ho pensato spesso a quello che mi dicevi anni fa. Che ci sono persone che valgono e persone che valgono meno. E che ai primi si dà l'insulina quando hanno il diabete e agli altri no. E allora mi era parso naturale. Stupida che non ero altro. Adesso hanno fatto una nuova distinzione del genere. E io appartengo alla categoria di quelli che valgono di meno. Ben mi sta. Da queste parole forse si capisce quello che volevo dire. In Germania non hanno iniziato subito a mandare gli ebrei nei campi di concentramento. È stata una cosa graduale. Prima il popolo, insoddisfatto delle condizioni di vita e della crisi economica, ha eletto il Partito Nazionalsocialista perché credeva che fosse l'unico che poteva risolvere i suoi problemi. Poi ci furono le leggi razziali, fu un processo graduale e le persone, la maggior parte delle persone, se ne resero conto soltanto quando era troppo tardi. Quelli che riuscirono scapparono, quelli che non riuscirono a scappare andarono incontro al loro orribile destino. Per questo dico che potrebbe succedere anche a noi, se non stiamo attenti, se non ci ricordiamo bene di quello che ci ha insegnato la storia. Io forse sarò un po' tragica, però con questa storia dell'invasione dei migranti e del fatto che l'estrema destra in alcuni paesi europei sta prendendo sempre più forza al governo, ho paura che gli anni 20 del 2000 diventino un po' come gli anni 20 del 900. E gli anni 20 del 900 hanno portato in fondo alla Seconda Guerra Mondiale, all'ascesa dei nazionalismi e alla grande tragedia dell'Olocausto. Ed è iniziato tutto così, cercando un nemico, che in quel caso erano gli ebrei. Nel nostro caso potrebbero essere le persone che hanno un colore della pelle diverso dalla nostra, oppure i musulmani, che accusiamo di essere terroristi. Insomma, si cerca sempre di dividere il mondo in categorie di persone che valgono e persone che valgono di meno. Eticamente questo ragionamento non è corretto, perché lo sappiamo tutti che gli esseri umani dovrebbero essere uguali e dovrebbero avere tutti gli stessi diritti e doveri, anche se di fatto purtroppo non è così. Però potremmo vederla anche da un altro punto di vista, dal punto di vista di Judith, che dice che una volta si trovava d'accordo con questa distinzione di persone che valgono di meno e persone che valgono di più. Le sembrava naturale, finché non si è trovata anche lei a far parte del gruppo di persone che valgono di meno. E questo è il grande pericolo di dividere le persone in due categorie. Che c'è sempre il rischio che anche noi ci troviamo nella parte di persone che valgono di meno, così da un momento all'altro, senza che ce ne accorgiamo e senza che possiamo fare niente per impedirlo. Possiamo discriminare gli altri se vogliamo, però chi ci dà la garanzia che prima o poi la ruota non giri e che non ci troviamo ad essere discriminati noi, ad essere privati dei nostri diritti? Ecco, secondo me ricordare la storia e quello che è successo è importante perché non ripetiamo gli stessi errori, perché anche in quell'occasione non ci si era resi conto della gravità di ciò che stava per accadere. E invece questa volta io spero che riusciamo a contrastarlo fin dall'inizio, per non dover assistere di nuovo a degli avvenimenti altrettanto terribili. E il rischio non è solo assistere. Potremmo anche essere noi le vittime, ognuno di noi. Non si sa mai chi diventerà il prossimo nemico della società. Potremmo benissimo essere noi. Quindi cerchiamo di non snobbare la giornata della memoria e a non pensarla come qualcosa di vecchio e di inutile. Perché la sua utilità, secondo me, ce l'ha ancora e in questo clima politico attuale ce l'ha più del solito. Spero che questo discorso vi sia sembrato interessante, anche se ovviamente cado sempre nel tragico perché è una mia tendenza. Se vorrete seguirmi per le prossime puntate, vi aspetto sempre qui su Radio Big World, il mercoledì sera alle 20:30, oppure nella versione podcast. Ciao a tutti!